Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, sono le 16.09, sono Luca Tremolada in compagnia di Sandro Mangiaterra e siccome fa freddo parliamo di gelato, bella idea, complimenti. Esatto, perché sembra un paradosso, ma è proprio in questo momento che si parla di gelato, perché si prepara, i gelatieri preparano le loro strategie per l'estate, no, proprio in questo momento. Perché tu tra l'altro l'hai fatto perché volevi Paolo Conte, cioè tu vai a Canzoni la settimana scorsa, Adriano Celentano, adesso Paolo Conte un gelato al limone, cioè funzioni esatto, così. La settimana scorsa perché continuano a costruire le case. Questa volta un gelato al limone è vero limone, è vero, ti piace? Esatto, perché noi racconteremo la storia di due gelatieri, com'è che si dice? Gelatieri. Come gelatari. Giornalista e giornalaio, okay. Ho scoperto questo. Due generazioni di gelatieri giovanissimi, tutti trentenni o giù di lì, Grom e Biancolatte, le abbiamo detti subito. Esatto, perché appunto sembra impossibile, ma il gelato, che è un prodotto ultramillenario, ragazzi, si può fare innovazione anche nel gelato. E andremo a scoprirlo. E tra l'altro chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamare all'824-0024, perché oggi vi promettiamo e scopriremo tutti i segreti del gelato, come è fatto, qual è l'ingrediente che costa di più, qual è il gelato più difficile, insomma, se avete quello al vero limone e non solo. Esatto, questo qua è un po' il frame che... Mentre gli sms al 349-238-6666, vediamo quante volte Mangiaterra dirà il gelato al vero limone durante la trasmissione. Chi lo conta non vince però nulla, perché non abbiamo niente, nessun regalo. Allora partiamo da Guido Martinetti di Grom, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E per lui abbiamo una scheda che insomma ci introduce il personaggio e l'azienda. Avete presente quelli di Grom? Sì, loro, Federico Grom e Guido Martinetti, i geniali trentenni piemontesi che, siccome nemmeno il gelato è quello di una volta, si sono messi in testa di tornare ai bei tempi antichi, quando il cono si faceva con ingredienti rigorosamente naturali. Oggi i due si sono divisi i compiti. Grom laurea in economia, è direttore finanziario e segue l'internazionalizzazione della società. Martinetti, laureato in viticoltura ed enologia, è responsabile di prodotto e si occupa dell'azienda agricola Muramura, di proprietà del gruppo. Insomma, l'uomo del gelato è lui. Perché proprio da lui parte il processo innovativo che è alla base del successo e della crescita di Grom. 32 negozi nel mondo, compresi quelli di New York, Parigi e Tokyo, che diventeranno 45 entro la fine del 2010. 16 milioni di fatturato destinati a diventare almeno 20, 350 dipendenti che saliranno a 450. Il segreto? Controllare direttamente l'intera filiera, dal prodotto agricolo alla conservazione delle vaschette, fino al negozio in cui il gelato è venduto al pubblico. Di più, fino ai materiali di supporto, tutti biodegradabili e riciclabili, tra i quali è rigorosamente bandita la plastica. Il gelato è vecchio di 1000 anni? Vero, ma può sempre essere più buono e fatto meglio. Forse non lo si sa, ma pure questa è innovazione. Ma quindi è l'innovazione, la scelta dell'ingrediente, c'è poca tecnologia dentro il gelato. C'è anche una parte di tecnologia, però per quel che ci riguarda, per quel che riguarda Grom, noi ci siamo detti, visto che un sorbetto, per esempio, è fatto da frutta, acqua minerale e zucchero di canna bianco, ci siamo detti, se devo fare un sorbetto alla pesca, qual è la migliore pesca che posso coltivare e quali sono i fattori che portano questa pesca a essere più buona di un'altra e poi mi dà l'origine a un sorbetto più buono. Quindi è un grande paradosso, perché l'innovazione è stata fare in agricoltura molti passi indietro e dire, ma io magari al posto di concimare quel campo dove ci faccio crescere le mie pesche con dei concimi chimici, metto del letame e faccio del sovescio, certo, per esempio. Quindi in realtà è stata una grande fortuna quella di avere l'opportunità a un certo punto nella nostra vita, parlo di me e di Federico, dire partiamo dall'agricoltura, facciamo un prodotto che è molto semplice, che è il gelato, e cerchiamo di farlo in modo serio, nel senso che io non mi permetterei mai di dire Grom fa un gelato più buono o meno buono di altri, ma sicuramente molto molto serio, e questo ne sono orgoglioso. Quindi Martinetti, mi faccia capire, cioè questa decisione di seguire l'intera filiera dal prodotto agricolo è nata all'origine di Grom da subito o è subentrata All'origine non avevamo il potenziale economico per poterla fare, perché io e Federico avevamo le tasche vuote decisamente. Siamo partiti con un negozio molto piccolo. All'inizio abbiamo semplicemente detto: facciamo il gelato scegliendo le migliori materie prime che ci sono in tutto il mondo. Dal Venezuela, se parliamo di cioccolato, passando dalla Siria, adesso parlavamo del pistacchio prima, piuttosto che il limone di Amalfi. Cioè, quindi, ecco, due cose sul pistacchio: è quello più costoso. Il gelato più costoso che facciamo è la granita alla fragolina di Ribera, che è una granita che cresce vicino ad Agrigento, nel comune di Ribera, ed è una fragolina straordinaria. Al mercato locale si vende veramente a prezzi da gioielleria. Quanto che costa? Proprio un esempio. Un netto di fragoline, ecco, di Ribera quanto costano? Come le compro io, che le compro all'ingrosso, tra virgolette, io le pago 12-14 euro al chilo. Tenete presente che il prezzo delle fragole normali tende a essere dai 2 ai 3 euro, indicativamente. Quindi 10 volte tanto, grosso modo. 5-6 volte tanto. 5-6 volte tanto, sì, esatto. Però sono buone. Però, io le giudico straordinarie, se no come imprenditore sarebbe... il punto di partenza è sempre una degustazione alla cieca e stabilire se quel prodotto davvero vale quello che costa. Cosa vuol dire alla cieca? Senza sapere di dove la provenienza? Alla cieca vuol dire che noi ci mettiamo senza sapere qual è il prodotto che stiamo assaggiando e assaggiamo e diamo un giudizio, ma non a parole, perché se no ci si condiziona reciprocamente, ma lo si scrive e poi si raccolgono i giudizi e si dice che mestiere meraviglioso. Assaggiatore di fragoline, esatto. Per esempio, ma il mestiere del gelataio, affrontando tutte le singole materie prime e poi la comunicazione, lo sviluppo dell'azienda, quindi la scelta dei negozi, dove mettere eccetera, è il lavoro più bello del mondo. Però Martinetti, adesso mi ha incuriosito, scusi, ma questo assaggio e questa valutazione ad assaggio, primo chi la fa? E secondo è a gusto, puro gusto del palato? Assolutamente sì. L'aspetto fondamentale in ogni degustazione, io vengo dal mondo del vino, questo mi ha insegnato moltissimo, è riuscire a non essere condizionati dall'etichetta. Perché se noi sappiamo già qual è l'etichetta di un prodotto, no? Che qualunque essa sia, etichetta in senso lato, ne siamo condizionati. Se invece siamo veramente alla cieca, cioè dobbiamo riuscire a liberarci dalle nostre idee, dai nostri preconcetti e dimostrare di essere bravi a riconoscere una certa cosa piuttosto che un'altra. E nell'ambito, si chiama panel, no? Quelle che da un punto di vista tecnico. E quanta gente c'è nel panel? Nei nostri, in azienda siamo 6 o 7. 6 o 7 ci sono io, ci sono due persone che considero particolarmente talentuose e poi ci sono 3-4 persone che invece... Cioè, talentuose perché? Perché sono attente e sensibili da un punto di vista di gusto, ma... Palato fine, ma non solo il palato fine tal quale, ma anche la capacità di descrivere le proprie sensazioni, perché se non sono capaci di descriverle io non posso raccoglierle e non posso farmi un'idea più precisa. E vengono delle cose fantastiche fuori, nel senso che magari ci sono prodotti in commercio, no? Tra quelli che compro io, magari c'è un prodotto che costa 5 e l'altro che costa 2. E poi la degustazione alla cieca ti dice che è più buono quello che costa 2. Sì, non è detto che non per è detto, forza... Non è scontato, spesso è così, ma non è scontato. Stanno arrivando molti complimenti, e insomma, c'è qualcuno che dice buonissimo, un po' caro però. L'agricoltura fatta bene, soprattutto il biologico vero, ed è raro, costa 3 volte tanto l'agricoltura convenzionale. Questo tutti i consumatori lo devono sapere. A me coltivare le fragole costa il triplo come decisione che se le coltivassi in modo convenzionale, per mille motivi, fermo restando che il biologico non è qualità da un punto di vista organolettico, ma è qualità da un punto di vista di rispetto. Quindi per non l'ambiente. Non usate gli e aromi artificiali, cioè non quello arriveranno i soliti con... Quello è il primissimo passo. Anche se a me affascina il fatto della chimica, che io riesco a ricreare i gusti, odori, i sapori. Però di fatto, cioè, insomma... Ma tra l'altro, quindi la laurea in viticoltura l'hai presa e l'hai gettata? No, oggi sostanzialmente sì, perché Grom è diventata un'avventura molto gratificante e piacevole. È assolutamente che impegna. Quindi niente gelato al vino, io volevo arrivare a questa stupidata qua. In realtà ci sei arrivato e sono noi sempre a settembre o ottobre, nel periodo della vendemmia, facciamo uno zabaglione a un passito, che è quasi sempre il passito di Loazzolo, che è un passito di uva moscato fantastico, ma abbiamo giocato anche facendo per esempio il gelato allo Chateau di Chem, che è il vino dolce più famoso del mondo ed è Sauternes per eccellenza, no? Un Grand Cru. E quindi si può giocare col gelato al vino, assolutamente. Bisogna sapere bene come si comporta l'alcol all'interno del gelato. Scusi Martinetti, ma adesso allora due cose volevo chiederle. Primo, quanta parte della vostra materia prima adesso proviene dalla vostra azienda agricola, cioè la coltivate direttamente? Allora, e poi mi dica, quanto costa il cono alla fragola di Grom? Costa di più che il cono alla fragola che io posso trovare in altre gelaterie? Beh, sì, gli ascoltatori dicono di sì, cioè ce l'hanno fatto capire. Però dicono che è più ma buono. Quanto costa sto cono? Allora, il cono da noi, a seconda delle città, a seconda dei costi operativi che abbiamo in ogni negozio, costa il cono piccolo 2 euro, 2,50 euro, quello è il range. A New York costa il doppio, diciamo, ammesso non concesso, e in questo momento storico non è concesso per niente, che dollaro e euro valgano, siano 1 a 1, comunque diciamo che a New York costa 5 dollari, cioè più del doppio. Ma New York ha dei costi di gestione completamente diversi, un negozio in affitto a New York, perfetto. Per cui diciamo che noi controlliamo la filiera, per rispondere alla domanda del signor Tremolada, noi controlliamo la filiera laddove è logico ed è possibile per noi controllarla personalmente in Piemonte. Quindi io ad oggi non coltivo i limoni ad Amalfi, in questo istante non ne ho la capacità. Certo. Lo fa un fornitore che ho in gambissima, che è il signor Aceto, che è un personaggio straordinario, e io gli rompo le scatole tutto il tempo per far sì che lui li coltivi secondo i miei desideri, i tuoi standard. Esattamente. Così. E quindi in Piemonte, quali sono le materie prime dal Piemonte, dalla vostra azienda agricola? Coltiviamo due tipi di pere, che si chiamano Martin Sec, che è la classica pera da cuocere nel vino, ed è cana, una cultivar francese. Poi coltiviamo dei fichi bianchi, coltiviamo due cultivar di fragole fantastiche, si chiamano Annabelle e Siflorette, melone, una sola cultivar si chiama Charentais, e poi ancora due pesche. Ecco, io stavo gialle. Leggendo dal sito, caramello al sale il titolo, cioè il gusto, e sì. Utilizzate il sale rosa dell'Himalaya. Esattamente. È curiosa questa cosa qui, cioè sembra un po' farsi del male, cioè lo scelgo sale non normale rosa, ma dove? Nell'Himalaya, cioè più difficile. Non di Marsala. No, di Marsala, no, è una roba complicata. Altrimenti in realtà è nata, il principio è, no, e ci siamo molto divertiti nel fare questa scelta, perché a un certo punto volevamo fare il caramello al sale, che in realtà fa parte della tradizione della pasticceria francese, quindi nulla di inventato. A un certo punto abbiamo detto, benissimo, dobbiamo fare il caramello al sale, scegliamo il sale. Ci siamo messi lì, abbiamo degustato 5-6 sali, ma ce n'erano anche di più curiosi, alle Hawaii per esempio, così come potevamo stare in Italia a Cervia, piuttosto che Florida. Però c'è un gusto di storytelling, cioè il gelato viene anche raccontato dai suoi ingredienti, perché è chiaro che un gelato al caramello, ma sì, vabbè, buono, però un caramello con il sale rosa dell'Himalaya. Diciamo che facciamo una scelta e cerchiamo di farla in modo serio e attento, e poi, come dire, cerchiamo di raccontarla al meglio. Ecco, noi abbiamo anche qui con noi Ludovica e Valentina Di Sarro, che sono, buongiorno, un modo per dire biancolatte, per cui un'altra giovanissima azienda, un'altra coppia di amici. No, scusa, queste sono sorelle, però trentenni, insomma, due donne trentenni contro due uomini trentenni, insomma. L'abbiamo realizzato per Ludovica una scheda. Dal cinema al gelato, film and food, due facce del Made in Italy. Ludovica Di Sarro, 37 anni, prima lavorava con il padre nella Nexo, società di distribuzione cinematografica che ha portato sugli schermi nostrani numerosi film di successo, tra i quali Il mio grosso grasso matrimonio greco. Poi, insieme con la sorella Valentina, 34 anni, ha deciso di mettersi in proprio e ha lanciato Biancolatte, che vuole diventare un marchio della gastronomia italiana nel mondo. Dopo il primo punto pilota aperto a Milano nel maggio dello scorso anno, Ludovica Di Sarro, con l'aiuto di partner locali, vuole portare Biancolatte nei maggiori paesi europei, negli Stati Uniti, in Giappone e, soprattutto, in Medio Oriente. Ma attenzione, Biancolatte non significa solamente gelato genuino, cioè preparato senza grassi idrogenati. Vuole dire anche caffè della migliore qualità arabica e cucina della tradizione. Insomma, un simbolo del mangiare bene e sano. Dal cinema al gelato. È bella strana sta cosa, È stranissima, ma... È andata così? È andata così, sì. Ma adesso siete contenti? Cioè è meglio il gelato o meglio... No, Il cinema è un settore veramente, veramente affascinante. Il gelato siamo arrivati per golosità, soprattutto di tutta la famiglia, che siamo golosissimi, e soprattutto per aver potuto girare tutto il mondo e aver visto dalle altre parti questi concept meravigliosi che purtroppo in Italia non ci sono. Ecco, Ludovica, ma voi avete studiato in qualche modo il caso Grom? Cioè conoscevate, l'avete analizzato? Allora, cioè, certamente. Perché è partito, solo perché è partito prima di voi, certo. E è arrivato al successo, insomma, prima di voi. Allora, non lo abbiamo analizzato, lo apprezziamo tantissimo. Io, nonostante appunto il bianco latte, vado anche a mangiare il gelato da Grom, perché no? Ci siamo ispirati ad altri modelli, tipo Le Pen Quotidien, che c'è appunto anche lui in tutto il mondo. E Le Pen Quotidien ruota intorno al pane, noi ruotiamo intorno al latte, per cui oltre alla cucina, il cappuccino, eccetera, facciamo anche il gelato di qualità. Ecco, allora ci spieghi, allora, prima Martinetti diceva un po', insomma, mi pare di poter riassumere così, il segreto, comunque il vero segreto del gelato buono sta nella materia prima, buona, selezionata, assolutamente naturale. Ecco, invece, allora, il vostro gelato, qual è la caratteristica del vostro gelato, del gelato da bianco latte? Allora, dunque, innanzitutto voglio dire che sta parlando Valentina. Valentina, perché lei è la vera esperta della materia prima, quindi assolutamente deve parlare. Allora, dopo Valentina, la prefazione dettagliatissima di Guido... No, dunque, volevo dire che noi sicuramente non abbiamo un'azienda agricola ad coltivazione biologica come Muramura, né utilizziamo l'acqua di Lurisia per i nostri sorbetti, ma sicuramente abbiamo un punto in comune con Grom, che è quello di aver adottato una politica assolutamente di non risparmio per quanto riguarda l'offerta ai nostri consumatori della qualità e genuinità del prodotto. Anche noi andiamo sicuramente a ricercare la territorialità di tutti i prodotti, il pistacchio del Bronte, la vaniglia del Bourbon. E ma infatti chiamate, io sono sempre sul sito, il pistacchio l'ho chiamato oro verde, cioè, assolutamente. Perché costa un sacco perché di soldi. Perché costa un sacco, e abbiamo pure anche l'oro bianco. Che e l'oro bianco? L'oro bianco è il sale dolce di Cervia. Sale dolce di Cervia. Detto oro bianco. Da non confondere col sale rosa del Himalaya. No, dell'Himalaya, assolutamente, assolutamente. No, tra l'altro i nostri ascoltatori che sono cattivissimi, io sono molto orgoglioso, ci hanno subito fatto notare, beh certo, però non è un gelato sostenibile, dolce. Cioè il gelato con il sale che arriva dall'Himalaya non è esattamente sostenibilissimo, cioè chilometri, emissioni, non è a chilometro zero, però. Non è a chilometro zero, però voglio sperare che sia naturale, insomma, cioè. Il chilometro zero è un bel dibattito, devo dire che io peso 70 kg e credo che solo per essere venuto qua a Milano, purtroppo ho fatto più emissioni del tutto il sale che consumerò nei prossimi 10 anni. Ecco, ci vuole un minimo di un numero, ci voleva un discorso così molto complesso quello su chilometri zero, secondo me. Valentina, sì. Allora, quindi la materia prima conta, oro verde, oro bianco e soprattutto abbiamo anche noi selezionato i cioccolati delle migliori provenienze. Quanti Venezuela. Ne avete di cioccolati? Guardi, 1, 2, 3, 4, sì, 8, sto contando. 8. Quello più difficile da fare, poi andiamo alla borsa e torniamo. Una battuta, il più difficile da fare di gelato? Il gianduia. Se avessimo gli strumenti potremmo dire ai nostri ascoltatori se effettivamente queste cose sono buone, infatti, o no. Noi non sappiamo, però ecco, cioè, mi sembra di capire che sia tutto molto empirico. Cioè, prima ci spiegavate che per fare un buon gelato, cioè, si prova e si riprova, non c'è un algoritmo scritto. No, assolutamente. Io, per quanto riguarda me, i test organolettici li ho fatti tutti io col mio palato, fidandomi del mio palato e poi vedendo il sorriso sul mio consumatore, quindi insomma, testimonianza che avevo cercato, che ho fatto un buon lavoro. Volevo riprendere assolutamente la politica, il discorso della politica di non andare a risparmio per quanto riguarda le materie prime, sia da parte di Biancolatte sia da parte di Grom. Poi si fanno anche gli spot, cioè si spalleggiano anche. Se domani fanno la fusione è fatta, cioè, noi abbiamo, qui siamo il mondo. Esatto. Starbucks trema. Mi spiace, non sia Federico qua con noi. Altrimenti che business noi c'entreremo qualcosa come radio. Voi siete come Donna Bond, non si sa mai. Piccolissima percentuale. No, ecco, è quello di non adottare assolutamente i grassi vegetali idrogenati. Perché non so, molte, i consumatori sono ignari di quanto fanno male alla salute, e quindi abbiamo appunto cosa deciso sono i grassi idrogenati, per far capire, allora, sono... per esempio, per fare un esempio, la margarina è un grasso vegetale, okay, perfetto, idrogenato, perfetto. Ecco, noi abbiamo anche in collegamento Maurizio De Pellegrin, che è il vice sindaco di Formo di Zoldo in provincia di Belluna, gelatiere da 40 anni e tra gli organizzatori della Fiera Internazionale del Gelato di Longarone. Eh? Esatto, e questo dice lunga, perché la Fiera Internazionale del Gelato di Longarone, che è giunta alla 50ª edizione, si tiene alla fine di dicembre, quindi questo per dire che noi siamo sull'attualità, anche sulla se notizia. Non sembra. E il signor De Pellegrin sarà indignato, perché qui ci sono i milanesi e i torinesi che dicono che il gelato più buono d'Italia, del mondo, lo fanno loro. No, mentre beh, insomma, che comunque invece ce la mettiamo tutti. De Pellegrin, buonasera, ci sente? La sento, buonasera a voi. Chieda giustizia, vogliamo chieda giustizia, perché il vera patria del gelato, forse gli ascoltatori non lo sapranno, ma non è né a Milano, né a Torino, né a Napoli, né a Palermo, ma è in Val Zoldana, giusto De Pellegrin? Esattamente, come ha detto prima, che la storia del gelato ha mille anni fa in Val Zoldana non si faceva il gelato, solo che da 100 anni a questa parte gli abitanti della Valle di Zoldo si sono dedicati alla produzione del gelato in mezza Europa, portando ancora all'inizio del secolo il gusto del gelato nei paesi stranieri, prima nell'impero austro-ungarico e dopo il secondo dopoguerra, specialmente nella Germania, che sono grandi. Ma anche voi avete un gusto particolare, un cavallo di battaglia, un qualche cosa che vi rende unici? Ci rende unici l'artigianalità del prodotto, cioè come dicevano anche giustamente, io sono perfettamente d'accordo con i suoi ospiti, nel produrre gelato la parte essenziale è il gusto preponderante e la sensibilità dell'artigiano che lo produce, quello di provare, riprovare, provare ancora i prodotti che più si adattano al gusto, al suo gusto soggettivo, ecco. Ecco, ma qual è il gusto della Val Zoldana? Non c'è un gusto specifico, la peculiarità dei gelatieri della Val Zoldana è quella di essere artigiani con una tradizione antica, cioè non usare prodotti chimici, non usare... Ma quindi cioè, i prodotti li fate venire come Grom che li fa venire dall'Himalaya oppure... non siamo a quel punto, perché ognuno, ogni gelateria è un mondo a sé, non abbiamo l'organizzazione alle spalle come possono avere i ragazzi di Grom, ecco. Senta De Pellegrin. Proprio è stato la caratteristica del gelato artigianale di Zoldo, è stata quella del fare gelato giorno per giorno, per cui ogni giorno il gelato è fresco nella vaschetta, che una volta non c'erano le vaschette, c'erano le sorbettiere rotonde. E quello che mi preme anche dire, come aveva accennato anche il ragazzo, il giovane di Grom, che non è tanto la macchina che fa il gelato, perché per esempio durante la fiera di Longarone, come diceva lei, che quest'anno si celebra per la 50ª volta, organizzeremo uno stand storico e io farò del gelato con delle macchine antiche, quelle ancora prima dell'invenzione dell'avvento dell'elettricità e del motore. Quindi, per cui macchine assolutamente davvero artigianali, come una volta, davvero come una volta. Scusi De Pellegrin, l'ultima dirle... cosa, aspetti De Pellegrin, l'ultima cosa. Io so che in Val Zoldana c'è moltissima gente che fa i 4 mesi invernali nella Valle di Zoldo, facendo il maestro di sci, attività turistiche legate allo sport della neve, e 8 mesi in giro per il mondo a fare i gelati. Ma quanti sono i gelatieri della Val Zoldana? Guardi, negli anni scorsi, fino a una decina d'anni fa, erano 60% degli abitanti, per cui la valle a febbraio-marzo si spopolava letteralmente, non rimanevano solo i bambini alla scuola e i vecchi che non erano in grado di lavorare in gelateria. Ora la tendenza si è un po' allentata, diciamo, qualcuno rimane a casa, anche i giovani... Scusi, 60% della popolazione, lì è che parlate, cioè per le strade si parla solo di gelato, cioè, nel senso, uno su due. Certamente, e si parla anche tedesco in pratica, no? Ah, ecco, ma pensa a te. Si parla del gelato italiano in tedesco nella Valle Zoldana sotto la mitica Civetta. Una delle montagne più belle delle Dolomiti. Insomma, noi volevamo una guerra di quartiere tra il gelato fatto in Lombardia, il Piemonte, così. No, niente, tutti amici. Sì, no, assolutamente sì. Grazie De Pellegrin dell'intervento, della cortesia, è stato un piacere. Ecco. Prego, arrivederci. Volevo chiedere a Ludovica Di Sago di Biancolatte, ecco, ma quindi c'è, cioè, la via d'uscita che avete cercato voi è proprio quella di cercare di vincere il freddo, cioè vincere la stagione. Sì, Biancolatte, diciamo, è stato concepito per Biancolatte è stato concepito per togliere la stagionalità al gelato. La nostra missione è quella. Cioè, tramite il caffè e questa cucina golosa, tra virgolette, eccetera, far sì che tutto l'anno noi abbiamo la stessa quantità di clienti, e devo dire siamo riusciti in questa difficile missione. Abbiamo lo stesso fatturato. Date solo il gelato, ma anche il caffè. Combattiamo questa stagionalità col cappuccino, la cioccolata e questa cucina. Ma ecco, una domanda che veramente mi pongo sempre, che si pone anche Emi da Bergamo: il gelato che avanza, cioè che fine fa? Proprio a me questa domanda. Bisogna calibrarlo per non farne avanzare. Esattamente. Ah, ok. No, perché me lo sono sempre, perché quando tu prendi il gelato di sera, no, poi io me lo sono sempre chiesto. Che vuol dire? Io non ho capito calibrarlo, che vuol dire? Calibrare la produzione in maniera che non avanzi il meno possibile. Non deve avanzare. Perché poi di fatto ci sono sempre i gusti, le bacinelle intere, poi di fatto... Che in realtà, da un punto di vista microbiologico, visto che il gelato è conservato a meno 11, meno 12 gradi, non accade assolutamente nulla. No, assolutamente. Non c'è sviluppo microbico. Però da un punto di vista organolettico invece, quindi il gusto, quello che anche cambia, la struttura del gelato diventa più ghiacciato. Ma quindi c'è il gelato più fresco e più buono? Sì. È stupidata o è... No, è vera. Perché, e quindi bisogna farlo proprio tutti i giorni, mantecato, assolutamente. È fondamentale, anche è uno dei punti fermi della gelateria artigianale, in realtà. Più ne consumi più è buono, perché ce l'hai sempre fresco. Sarebbe bello capire, come abbiamo visto con i topi, poi questo è un discorso tra me e Mangiaterra, però cioè se cambiano i gusti in base alla localizzazione geografica, cioè se in Italia si mangia più cioccolato. Certo, ma in generale il Che gusti vogliono gli americani? Ma allora, gli americani mangiano, almeno quelli di New York, che sono degli americani direi sui generis, un po' con la puzza sotto il naso, è più raffinati sicuramente, cioè hanno una cultura anche gastronomica molto più elevata rispetto a quello che chiedono in America. Chiedono dei gusti della tradizione del gelato americano che loro leggono e vedono in generale, quindi i più consumati sono la vaniglia, il pistacchio, la stracciatella e il cioccolato. Questi sono i gusti che vanno assolutamente di invece a Milano, per esempio. Beh, però sei Milano centrico proprio. Siamo sì. Milano, Torino, insomma in Italia. Noi il gusto che vendiamo di più è la crema di Grom, che è una crema particolare all'uovo con dei pezzi di biscotto fantastico, con delle vecchie culture. Rigorosamente savoiardi. Sono delle paste di meliga, sì, direi più che savoiardi, sono comunque del sud del Piemonte. Devo dire che è un gusto che va molto, molto, molto bene. Poi va molto forte anche il gianduia, che è un gusto che piace sempre ai bambini, per esempio. D'estate, per quel che ci riguarda, va fortissimo il melone, perché rende il melone che viene dalla nostra azienda. Vediamo se riusciamo a creare. Siamo d'accordo, Biancolatte, o no? Sui gusti che sono stati detti. Sì, diciamo che stracciatella, pistacchio, così sono anche a Biancolatte, sono i gusti che vanno per la maggiore. Sicuramente da noi funziona tantissimo la nostra invenzione, che è il buon biscotto. E che la ricetta dei biscotti e salati di origine misteriosa, ovviamente. Alla fine siamo sempre sugli stessi. Lì c'è l'ingrediente misterioso. Ma certo. cioè alla fine proprio ce lo dire. Poi abbiamo capito che c'è un grande ritorno del pistacchio, perché l'oro verde invece restava lì e invece adesso va a Ruba. Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova, che ci racconterà quello che si troverà domani su in edicola. Sì, tutto di un fiato. Sono un po' in imbarazzo perché passare dal gelato, che insomma è un argomento così dolce e insomma, come dire, accattivante, a Nova, che è altrettanto accattivante ma un po' meno dolce, insomma. Anche perché ci occupiamo di blog aziendali, cioè insomma andiamo a fare un po' il punto di ribelli delle aziende. Sì, di blog aziendali, ma diciamo, per in qualche modo ricollegarmi alla gelateria, che bene o male è una piccola impresa, è un po' le opportunità che si aprono con l'internet partecipativo, con quello che si chiama il web 2.0, per le imprese, ampliando un po' il discorso. Proprio recentemente ci sono stati casi un po' in tutti i settori di aziende che sfruttano i social network per farsi pubblicità, per farsi conoscere, ma soprattutto per entrare in dialogo con il consumatore. Quello che è sempre più evidente è che l'azienda non deve più limitarsi a considerare il consumatore, il cliente, come un utente del proprio prodotto, ma come una persona con cui parlare, con cui dialogare. Quindi adesso tu rivelerai delle cose del Sole 24 Ore e vediamo cosa succede, se ti cacciano o meno. Sì, questo è un aspetto, nel senso che voglio dire, poi l'azienda deve essere appunto trasparente, perché noi siamo partiti da una serie di blogger che in qualche modo sono stati poi licenziati o hanno stati cacciati dalla loro azienda perché hanno rivelato delle cose che non dovevano o non volevano, così. Però segnaliamo anche degli altri casi in cui l'azienda ha saputo trasformare questa critica in un aspetto positivo. Sì, ricordiamo anche che si parla di blog aziendali, ovvero cioè di strumenti che ci dà il datore di lavoro. Io sul mio blog personale, questo è indipendente, cioè tu come dipendente hai dei vincoli per cui non è che puoi dire tutto quello che vuoi anche all'esterno dell'azienda, perché ci sono dei limiti legali anche a maggior ragione se lo fai sugli strumenti. Ci sono stati dei casi in cui sono diventati un vantaggio. Voi avete il blog Grom? No. Lo scrivono in molti. Biancolatte avete? No. Posso fare un esempio molto banale di un'azienda pubblica di trasporti che usa Twitter per segnalare ritardi a tutti gli utenti e così. Allora mi veniva in mente, per una gelateria, per una piccola impresa, diventa un'occasione per fidelizzare, per parlare con i propri utenti, con i propri clienti, raccogliere idee, consigli di nuovi gusti. Barilla, per esempio, è un caso di eccellenza perché ha recuperato una serie di merendine che era sparite, che il pubblico richiedeva. Mentre su Nova, noi ricordiamo che il prossimo numero ha il... numero 200. Siamo già 200 numeri. Grande festeggiamenti, insomma, organizzeremo feste, cose, insomma, grandi sorprese. Noi ringraziamo Guido Martinetti di Grom, Ludovica di Sago di Biancolatte. Grazie a voi. Valentina di Sago di Biancolatte, naturalmente Sandro Mangiaterra. Noi ci sentiamo domani.